Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Con queste note, Where the Streets Have No Name, The U2, iniziamo il programma di oggi con il nostro incontro con Ugo Giordano. Buongiorno, dottor Giordano. Buongiorno a lei. Ecco, dove le strade non hanno un nome, forse un nome di una canzone un po' evocativa anche di quello che fa nella vita il dottor Giordano, che è... amministratore delegato del gruppo Gavetti, della capogruppo. Quindi un gruppo in cui le strade hanno un nome, perché le strade sono importanti. Le strade hanno un nome, le città hanno un nome, ci sono i numeri civici, però la scelta del pezzo in realtà è completamente scollegata da ogni significato recondito. È un gruppo che mi piace, questo pezzo mi piace. E quindi è una scelta estetica. Assolutamente. Le ricorda qualcosa della... perché non è un brano recentissimo. No, non è un brano recentissimo, ma neanche io sono giovanissimo. e quindi è un brano che mi ricorda una certa, un brano come il gruppo che mi ricorda una certa parte della mia vita. Una parte appunto di qualche anno fa, quando iniziava. Lei è laureata in legge, mi sembra. Io sono laureata in legge e ho iniziato a lavorare a Genova in una società che era quotata in borsa di famiglia che si chiamava La Gaiana, che aveva un proprio patrimonio valorizzato in gestione e poi aveva attraverso società un'attività di valorizzazione, sviluppo e trading immobiliare. Quindi diciamo che dal punto di vista cronologico questa canzone, così come certi brani degli U2 o altri, sì, si vanno a collocare nel mio periodo, tra virgolette, genovese. Ecco, il periodo genovese è il periodo appunto iniziale della sua esperienza, in cui ha fatto l'università, e da piccolo pensava già di fare quello che fa adesso? Veramente no, da piccolo pensavo di fare l'avvocato, ed è la ragione per cui ho studiato legge e mi sono iscritto all'albo degli avvocati. Poi ci sono rimasto un anno perché nell'ambito della famiglia avevamo questa partecipazione in un'azienda e che era stata gestita fino ad allora da manager vari, e ho ritenuto di occuparmi dell'azienda fino all'anno 2007, anno in cui l'azienda si è fusa in Gabetti, ed ecco la ragione per cui io sono di fronte a lei al microfono. Come appunto amministratore delegato della Gabetti. Ma io tornerei ancora agli anni dell'avvocatura, perché tra avvocato e manager quali sono i punti di contatto, i punti per cui essere manager è più facile se si ha un'esperienza di avvocato, o magari l'avvocato è qualcosa che può ricordare in certi aspetti anche l'attività manageriale? Ma le direi non ci sono molti punti di contatto. Se faccio un discorso serio, le dico che è più una questione di formazione mentale, ma che allora non riguarda anche lì solo gli studi di legge, ma riguarda anche il liceo classico. Cioè, ti dà un'impostazione mentale che poi ti è utile nella vita, che tu vada a fare il manager piuttosto che un altro tipo di attività. È proprio un modo di incasellare i pensieri e muoversi in coerenza. Poi l'attività manageriale nulla a che vedere con la preparazione legale, è solo mentale. Quando ha cominciato a occuparsi di immobili? Questa è una bella domanda. La risposta ovvia dovrebbe essere quando ho cominciato ad entrare in azienda, ed è vero, sì. È sostanzialmente vero, perché se per occuparsi si intende proprio un'attività che comprenda la gestione, che era quello che faceva Gaiana, la valorizzazione e poi tutte le attività che a queste possono essere collegate, dal punto di vista professionale io ho cominciato a farlo quando sono entrato in Gaiana. Quindi sì. In che anni erano? Le direi, questa qui mi mette in difficoltà. Vabbè, fa parte della sua storia. Le direi subito dopo essere diventato avvocato, gli anni 90, forse ecco una ventina di anni fa, quindi è una ventina di anni di esperienza. Il mondo immobiliare in questo periodo è cambiato, ma io parlerei di questo magari nella seconda parte del nostro programma. Starei in questa prima parte parlando un po' proprio della sua esperienza di vita. Lei poi ha lasciato Genova. Ho lasciato Genova, sì, nel senso che passo la settimana a Milano, ma torno a Genova ovviamente nei weekend, avendo una famiglia frazionata, frutto dei tempi, torno a Genova una volta alla settimana, una sera alla settimana per vedere i miei figli e tutti i weekend. E che cosa rimpiange più quando è a Milano di Genova e quando è a Genova di Milano? Diciamo che ho cominciato ad apprezzare Milano fin da subito per la dinamicità della città, e ho cominciato ad apprezzare maggiormente Genova da quando sono a Milano. Per i ritmi di vita, che comunque sono diversi, ed è banale dirlo, per il clima e i paesaggi. Beh, indubbiamente il mare a Milano non c'è. No. Se Milano avesse il mare, forse sarebbe qualcosa. Cioè, sono due città splendide perché sono complementari l'una all'altra. Da questo punto di vista, lavorativamente parlando, non c'è, Milano offre molto di più rispetto a Genova. Come città, come vivibilità, Genova è meglio. Beh, indubbiamente i milanesi considerano un po' la Riviera come la periferia marina di Milano, in un certo senso, quindi è anche abbastanza vicina, quindi possiamo dire che ormai siamo collegati. Lo posso tragicamente confermare andando giù il venerdì sera e tornando sul lunedì mattina. C'è sempre molto traffico. Tantissimo. Ecco, quindi è arrivato a Milano e si è occupato di Gabetti. Qual è stato il primo impatto che ha avuto entrando in un'azienda come Gabetti, un'azienda che era già sorta negli anni precedenti, si era già consolidata come una delle realtà immobiliari più dinamiche del paese, con qualche problema che poi negli anni anche lei ha aiutato a risolvere? Beh, l'impatto è stato, sto cercando un aggettivo che non sia negativo, però è stato molto pesante, ma pesante soprattutto prima ancora che a livello operativo, a livello psicologico. Io quando ero in Gaiana ero abituato ad avere a che fare con i fornitori di servizio, con le società di servizi, perché io ero il cliente e andavo ad acquistare i servizi. Dopo, facendo la fusione con Gabetti, io sono andato dall'altra parte del tavolo, io vendevo i servizi. Certo. E quindi da un certo punto di vista c'era maggior facilità nel comprendere quale doveva essere la modalità di erogazione di questi servizi, perché li avevo comprati fino al giorno prima. Dal punto di vista psicologico, mi creda che è molto diverso se lei compra il giornale o vende il giornale. Beh, indubbiamente. Ecco, sotto questa prospettiva, il mercato immobiliare in questi ultimi 20 anni è sicuramente cambiato. Com'era quando lei ha iniziato a occuparsi di immobili? Era un mercato, qui userei il termine locale per quello che riguarda l'Italia, era un mercato tranquillo. Un mercato dove gli immobili valevano tante lire al metro quadro, secondo dei ragionamenti che valutavano solamente il sottostante, cioè la qualità dell'immobile, la location dell'immobile, i rendimenti erano coerenti con tutto questo, non c'era finanza negli immobili. Cioè era quello che gli economisti chiamano un valore d'uso, cioè si comprava un immobile per abitarlo. Sì, sostanzialmente sì. E quindi il valore era... O per fruirlo. O per fruirlo, sì, indubbiamente. Quindi il valore era quello rappresentato dal costo dell'immobile e dal vantaggio che si poteva avere utilizzando quell'immobile, quindi c'era poca finanza. Sì, diciamo la finanza quasi non c'era. Poi c'è stata una seconda fase e questa forse era un eccesso, cioè io trovo che in Italia ci si muova sempre per eccessi. Prima non c'è una cosa per nulla, poi ce n'è troppa, poi si corregge il tiro e si tende di nuovo a eccedere. Prima c'era una totale mancanza di finanza. Quando all'estero si diceva, aveva in tutto il mondo sostanzialmente, un immobile vale anche in quanto rende, da noi il concetto del rendimento dell'immobile era un concetto che non era presente sul mercato. Poi il mercato si è andato finanziarizzando e da zero finanza a poca finanza si è passati a un eccesso di finanza, per cui si è perso di vista il valore del sottostante. Quando si andavano parlo in linea generale naturalmente, a vedere operazioni immobiliari, molto spesso si guardava sulla carta. Il sottostante era un di cui, ma quello che contava e che guidava erano i numeri rappresentati su un foglio di carta. Ecco, però in Italia non c'è mai stata una bolla immobiliare vera e propria, quella che di fatto per esempio c'è stata negli Stati Uniti, in qualche modo c'è stata anche in Gran Bretagna, in Spagna soprattutto, cioè un eccesso di valutazione degli immobili. No, però c'è stata, diciamo che il fenomeno che a livello mondiale ha portato alla situazione macroeconomica, che specificatamente sull'immobiliare dove siamo oggi, in Italia è stato molto attenuato. Molto attenuato perché comunque era un mercato che, per quanto finanziarizzato, era più provinciale. Allora, da questo punto di vista, anche da noi si sono rarefatti in modo fortissimo gli scambi, anche da noi ci sono state dei ripiegamenti sui valori, molto meno marcati rispetto ad altri mercati dove l'offerta era molto più ampia rispetto alla nostra. Paradossalmente, se io le faccio un discorso sullo sviluppo, i tempi in Italia per realizzare un'operazione di sviluppo sono, se mi passa il concetto sorridendo, biblici. Cioè sviluppo cosa intende? Sviluppo intendo dalla valutazione di un'area, all'acquisizione dell'area, all'approvazione dei permessi a costruire, alla costruzione vera e propria per poi arrivare alla vendita. Quindi un vero e proprio quartiere, delle abitazioni in senso... Abitazioni o uffici. I tempi sono talmente lunghi per cui tutti i processi che, per esempio, facciamo l'esempio della Spagna, sono stati talmente veloci per cui quando si è creato il problema immobiliare relativo ai valori ci si è trovati con un'enorme massa di prodotto sul mercato. Da noi questo non è accaduto, c'era del prodotto sul mercato, ma dal punto di vista quantitativo non era così elevato come all'estero. Questo ha consentito sì uno stop alla crescita dei valori, ha determinato una riduzione dei valori, una riduzione delle transazioni, anche da noi c'è del vacancy, però ce n'è un fenomeno molto più attenuato rispetto... Quindi in un certo senso essere provinciali qualche volta è un vantaggio. Incontri. Queste note di World Street Are No Name del U2, riprendiamo il nostro dialogo con Ugo Giordano, amministratore delegato della Gabetti. Abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, di come è arrivato ad essere amministratore delegato della Gabetti, di quale è la realtà attuale del mercato immobiliare. Magari prima di tornare a parlare di case e di immobili, abbiamo parlato di Genova. Genova è anche il mare, le piace il mare? Io adoro il mare... È forse addirittura più bello d'inverno rispetto all'estate. È meno fruibile, ovviamente, per questioni di temperatura, ma la bellezza del mare è maggiore in inverno quando c'è... Dove va o come va per mare? Io ho una casa a Santa Margherita che tendo a vivere con i miei figli nei periodi estivi. E poi, quando riesco, mi prendo 7-10 giorni e esco in barca. Barca, Mediterraneo. Mediterraneo, perché i tempi sono strettissimi, sono gelosa, la barca me la porto io, quindi non la faccio portare da nessuna parte, è una barca piccola, e quindi navigo fra Corsica, Sardegna, Costa Azzurra. Ha mai rischiato viaggiando per mare? Ma veramente le direi regolarmente, compreso quest'estate quando a 30 miglia dalla Corsica a un'elica si è avvolta una drappa, che è un cavo d'ormeggio molto grosso dei traghetti, e sono andato avanti per 3 ore con un solo motore, poi ho cercato di fare Indiana Jones immergendomi con un coltello per tagliarla, cosa che era assolutamente impossibile, e ho dovuto chiamare dei sommozzatori perché me lo segassero via. Quindi, è più rischioso il mare o una operazione immobiliare? Sono rischi diversi, perché il mare mi hanno insegnato da piccolo che va rispettato, va sempre rispettato, non lo devi mai sottovalutare, e lì, tra virgolette, ti giochi la pelle. Il mercato immobiliare è un mercato che dal punto di vista della salute fisica non presenta rischi. Certo. Presenta ovviamente i rischi connessi a un mercato che vive di leggi economiche, per cui se tu compri il prodotto giusto e lo paghi il prezzo giusto non hai fatto un buon affare, e se tu invece compri il prodotto sbagliato e l'hai strapagato, il rischio che corri è quasi una certezza, hai perso dei soldi. Quale può essere un vento contrario sul fronte immobiliare, sul fronte degli affari immobiliari? Vabbè, direi che è quello che sta aspirando da un paio d'anni e che ragionevolmente continuerà a aspirare con forse la stessa intensità ancora per l'anno prossimo, e poi vediamo, perché come nella realtà le previsioni del tempo non sono attendibili oltre i pochi giorni, così nella realtà, nei mercati economici, nel mercato immobiliare, è irragionevole fare previsioni oltre 12-18 mesi. Certamente ad oggi spira lo stesso vento contrario che ha aspirato negli ultimi 2 anni. E questo vale sia per gli immobili residenziali, sia per gli uffici, sia per gli immobili industriali? La risposta dovrebbe essere diversificata, la macro risposta è sì, con modalità diverse. Il residenziale è quello che risente meno rispetto al terziario del vento contrario, nel senso che c'è un vento contrario, ma ci sono comunque le esigenze delle famiglie di cercare casa, che vengono poi mitigate in questo momento dal clima di enorme incertezza che abbiamo su tutto, però le abitazioni proprio per tipologia di prodotto e diciamo anche le abitazioni di fascia alta di prezzo sono quelle che un po' meno risentono del vento contrario, poi il discorso è molto generale perché dipende da piazza a piazza, dal fatto che siano centrali piuttosto che non periferiche, ma le abitazioni risentono meno. Per quello che riguarda invece il settore terziario non può non risentire dell'andamento economico generale, quindi il discorso è più ampio. Il mercato immobiliare è l'ultimo anello della catena economica. Ecco, è vero che quelle che hanno meno difficoltà sono le abitazioni di lusso? Sì, è vero perché malgrado appunto questo clima macroeconomico, le famiglie, le persone che hanno i soldi ancora ci sono, e in questo momento a livello psicologico sono un pochino più propense ad investire nell'abitazione particolare che in altre fasi di mercato probabilmente non trovano o devono strapagare. Quindi la risposta è sì, è vero. Quindi ci può essere un mercato di chi vuole vendere un appartamento da 1 milione per comprarne uno da 1,5 milioni, riesce facilmente a venderlo e a comprarlo? Allora, l'aggettivo facilmente lo trovo particolarmente ottimistico, però la risposta è sì, ci sono queste operazioni sul mercato. Stiamo parlando naturalmente di una nicchia. Certo. Ecco, che non può far tendenza, perché poi il clima generale è di preoccupazione nell'incertezza, e come lei sa, l'essere umano, come è naturale che sia, quando è incerto ed è preoccupato tende a muoversi meno rispetto a quello che farebbe in situazioni diverse. Ecco, Ugo Giordano è nella plancia di comando della Gabetti. Come è fatto questo incrociatore, questa Gabetti? Qual è la realtà attuale di questa azienda in 30 secondi? È un'azienda particolarmente complessa, malgrado le dimensioni non siano da incrociatore. È un'azienda particolarmente complessa perché sotto la capogruppo ci sono delle società che si occupano appunto di intermediazione immobiliare, e a loro volta sono spaccate occupandosi di intermediazione immobiliare residenziale piuttosto che non intermediazione immobiliare non residenziale. Ci sono delle società che invece fanno attività di valutazioni e perizie, esperti indipendenti per fondi. Ci sono società che fanno servizi tecnici, quindi property, management del facility, due diligence, certificazioni energetiche. Quindi per quanto la società non abbia dimensioni da incrociatore, è in realtà per il suo interno particolarmente complessa per il filone di attività che svolge. Qual è stato il filone, l'attività che è cresciuta di più negli ultimi tempi, negli ultimi anni? Gabetti tradizionalmente è sempre stata fortissima nella intermediazione di prodotto residenziale, tant'è che se lei chiede a chiunque, al nome Gabetti associano l'agenzia, certo, che vende l'appartamento. È cresciuta molto nel brokeraggio non residenziale, è cresciuta moltissimo nei servizi, e per servizi intendo appunto valutazioni, due diligence, regolarizzazioni catastali, certificazioni. Qui è proprio cresciuta moltissimo, tanto che ad oggi questa parte di attività cuba più del 50% del fatturato dell'azienda. E attualmente lei diceva che le prospettive del mercato a un anno, due anni sono ancora di sostanziale stabilità, di non crescita, ma neanche di frenata. È un mercato abbastanza statico, mi sembra di capire. Direi che ha trovato l'aggettivo giusto. È un mercato abbastanza statico per effetto della situazione di cui parlavamo prima. Noi non prevediamo, io non prevedo a breve intendo 12 mesi che il mercato cambi, andare oltre i 12 mesi diventa un esercizio, non c'è visibilità, poi ovviamente in progressione andando avanti capiremo, certo, cosa succederà anche nel 2012. Al di là degli interessi personali, perché se io le chiedo se una persona che vuole acquistare una casa è giusto che l'acquisti, lei le vende, quindi mi dirà sicuramente di sì, ma guardando un po' da osservatore questo mercato, indubbiamente la prospettiva di una crescita dei prezzi può essere abbastanza, non dico ravvicinata perché parlavamo appunto di difficoltà di fare delle previsioni oltre un anno, però forse questo è il momento di acquistare. Mi rendo conto che sono in conflitto di interessi se le dico di sì, però la risposta che è vera e sincera è che la risposta è sì. È sì, ovviamente, con riferimento al prodotto giusto. Cosa intendo per prodotto giusto? Se parliamo di residenziale, l'appartamento che corrisponde alle esigenze del potenziale acquirente, pagato al prezzo giusto, nella zona giusta, oggi, secondo me, è da comprare. È da comprare perché i valori sono fermi e sono scesi negli ultimi 2 anni, e c'è una vastità di offerta che in altre fasi di mercato non c'è. Allora, se lo scopo dell'acquisto è quello di godere, fruire del bene, sicuramente non c'è da avere dubbi oggi da comprare. Se lo scopo dell'acquisto è quello di fare una speculazione, allora il discorso è completamente diverso. Ecco, indubbiamente, però se hai l'impressione, per esempio a Milano, che si costruisca molto, non ci sarà un eccesso di offerta nei prossimi questo anni. Deriva da quello che le dicevo prima dei tempi biblici in Italia per arrivare in fondo al processo di edificazione partendo dall'area. Il nostro mercato è risentito meno rispetto ad altri, perché c'era minore offerta sul mercato rispetto ad altri mercati, ma oggi sono arrivate a maturazione operazioni che sono invece state lanciate un po' di anni fa, quando ovviamente una situazione di mercato del genere non si prevedeva, e effettivamente stanno arrivando oggi sul mercato più prodotti rispetto a quelli che c'erano prima. Purtroppo quando uno parte con questi processi non riesce mai a governare i tempi, e quando arriva una maturazione. Ecco, quindi indubbiamente il mercato sarà comunque un mercato che potrà riprendersi nei prossimi anni. Ci sono le condizioni anche per il fatto, appunto, che questa staticità di questo periodo forse sta un po' comprimendo la domanda, che dovrà comunque esprimersi in futuro. Questo sì, dipenderà molto dalla situazione macroeconomica, perché come le dicevo prima, il settore immobiliare è veramente l'ultimo anello della catena economica, e per quello che riguarda invece il residenziale, le famiglie che acquistano una casa devono cercare di passare sopra una situazione come quella attuale, dove l'incertezza crea preoccupazione, e nel dubbio tutto questo genera, non dico un immobilismo, ma una tendenza a rallentamento dell'operatività. Ecco, se lei fosse completamente libero da vincoli e da interessi e dovesse scegliere dove andare ad abitare, in quale città italiana andrebbe a comprare casa adesso? Ma questa è una domanda veramente imbarazzante, perché ho difficoltà a sganciarmi da Genova, perché è proprio da quando non ci sono, come le dicevo prima, che l'apprezzo tantissimo. Non lo so, io... Beh, quindi Genova, diciamo Genova... Se in Italia Genova, se no me ne andrei tanto volentieri all'estero. Quindi l'esperienza di Genova è rimasta, in fondo è anche bello e importante che le radici rimangano radici, e che si apprezzi anche quello che di bello che uno ha incontrato, forse un po' casualmente, perché è nato in quel posto. Sì. Grazie, io ringrazio dottor Ugo Giordano, amministratore delegato della Gabetti, per essere stato con noi questo pomeriggio, questa domenica. Abbiamo parlato del mercato immobiliare, ecco, le prospettive, come dicevamo, sono sempre incerte, ma quello che è importante è che ognuno possa trovare la sua strada e anche la sua casa. Grazie ancora ad Ugo Giordano, così come grazie a Peter Bascapè in regia, ad Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come tutti gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie ancora e buona domenica.